ricordati di me. Mentre dormi accanto a qualcuno che nei sogni tuoi non entrerà. Quando all'improvviso senti un brivido di volti e non è freddo ancora, e non è freddo mai. E pensa che con me ha invertito pure le stagioni, il freddo prima o poi non sentirai. Prendi quella tua camicia a fiori e presto fammi un vestitino che non copre la tua età, non svela la tua età. Poi dai una mano ai sogni tuoi, portami dovunque e non disperderli. Noi perle chiuse in fondo al mare, noi piume d'aquila nel vento. Vai e grida pure il nome mio, l'aria fredda a me lo porterà. Ricorda che con me hai vissuto tempo e sogni che la vita poi scolorirà. Piena di persone che ti parlano e ti dicono che brilli ancora, che non invecchi mai. Talvolta pensi a me, mi ricordi come se tante stagioni non dovessero svanire, quasi come il tempo andato via fosse rimasto tra di noi, fosse restato qui, e invece non è qui. Dai, dai una mano ai sogni tuoi, portali dovunque e non disperderli. Noi perle chiuse in fondo al mare, noi piume d'aquila nel vento. Vai e grida pure il nome mio, l'aria fredda a me lo porterà.